24 mattino. Ero incavolato con i miei vicini che in un paesino di 3.000 abitanti che ha zero positivi e nessun contagio da più di una settimana erano tutti fuori a passeggiare, sebbene con le mascherine. Poi ho visto le immagini dei navigli a Milano. Ma dove vogliamo andare? Massimiliano, dalla provincia di Bergamo, esattamente dal comprensorio Alzanon Nembroceni Albino. Se devo vedere la gente la sera in giro fare attività sportive in una quantità esagerata, sembra di essere a Milano alla fiera degli Obei Obei, allora a questo punto dico fatela lavorare e costringetela a stare a casa la sera, grazie. Riguardo all'immigrazione, Renzi nell'incontro ha messo sul piatto la sfiducia a buona fede. O passa la regolarizzazione o danno la sfiducia a buona fede. E allora vedrai che alla fine cederanno i 5 Stelle. Non lo so se cederanno, non lo so, ne parleremo tra un attimo anche con Paolo Mieli di tutta la questione politica. Per il resto, i navigli, il comprensorio, tra l'altro il comprensorio più colpito da questa pandemia, la parte italiana più colpita da questa pandemia. È faticoso evidentemente far capire alle persone che siamo ancora in pandemia, cioè siamo ancora in una situazione di emergenza, siamo ancora in una situazione di difficoltà, ed è vero che le terapie intensive si sono scaricate, è vero che il numero dei nuovi positivi cala. È vero anche dall'altra parte che ancora ieri si sono contati 270 morti. È vero anche che il numero di vittime è stato elevato. Dall'altra parte qualche medico ci dice: guardate, il virus sta perdendo forza. E però l'attenzione va mantenuta elevata, i dispositivi di protezione vanno mantenuti. Se uscite per strada, tenete la distanza, perché quelle immagini che si... La cosa che impressiona di quelle immagini che si sono viste dei navigli a Milano è soprattutto quello, cioè al di là della folla, il mancato mantenimento della distanza, cioè state più lontani dalle altre persone. È molto semplice questa cosa. Milano, che è un fronte di preoccupazione, ci arriveremo tra un attimo, tanto che la vice sindaca nelle scorse ore ha detto: attenzione, perché abbiamo riaperto i parchi, ma se andate avanti così potremmo richiuderli di nuovo. Quindi la questione resta ed è aperta, naturalmente. Sono le 7:21 minuti, questa è la seconda parte di 24 mattino, è venerdì 8 maggio ed è la parte, come ben sapete, dedicata alla rassegna stampa, e con la quale prendiamo il via partendo come sempre dai titoli. Il Messaggero: viaggi tra regioni, ecco il piano. E qua il Messaggero ci dà una notizia, perché il governo apre agli spostamenti dal 25 maggio, ma solo tra le aree che avranno basso contagio. Respinta la richiesta dei governatori di riaprire tutto dall'11, la mossa di Boccia insieme ma dal 18. Altri quotidiani che si dedicano a questo, al tema delle riaperture, al tema delle regioni, sono il Corriere della Sera, che titola aperture, scontro sui negozi, poi tra l'altro è di questa notte, e lo sapete, ve l'ha raccontato il GR, ve l'abbiamo detto poco fa, che la notizia è che la provincia autonoma di Bolzano da domani riaprirà i negozi in anticipo. Il Corriere della Sera parla appunto delle regioni che chiedono di riaprire dall'11 maggio, il governo frena non prima del 18, anche qua più o meno la stessa notizia. Il Quotidiano Nazionale: le Regioni Unite, negozi aperti subito, voglia di riaprire, il titolo del giornale, anche questo dedicato a questo tema qua. Aprire, chiudere o uccidersi, le opzioni offerte dal governo, è il titolo di Libero. Altri giornali si dedicano invece alle questioni politiche. La Verità, che parla di Bonafede come la miccia per far saltare Conte. Insomma, tutta la vicenda che riguarda il ministro della giustizia sarebbe, secondo La Verità, il grimaldello con il quale l'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi sarebbe pronto appunto a far saltare il banco e a far saltare il governo. Tutto questo nonostante, come abbiamo raccontato spesso nei giorni scorsi, il Quirinale abbia fatto capire molto chiaramente che se c'è crisi di governo si va al voto, non si fa un'altra maggioranza. E però dall'altra parte troviamo le aperture di Renzi, un contratto per salvare il governo, è l'apertura del quotidiano La Stampa con un'intervista appunto a Matteo Renzi che dice se fa le cose giuste, il governo se fa le cose giuste va avanti e propone un contratto per i prossimi mesi. Il Fatto Quotidiano vede questa semicrisi di governo già finita, Apocalypse Ciao scrive, niente crisi, Renzi fa pace con Conte e l'Europa apre sul MES. E la sconfitta di Bonafede, secondo La Repubblica. Il ministro voleva subito un decreto per riportare in cella i boss, ma incassa solo un debole compromesso. Le preoccupazioni del Quirinale. Il Manifesto ci parla di, che ci dice che su Braccianti e Badanti è arrivato l'accordo e titola l'apertura del Manifesto è dedicata appunto al MES, alle dichiarazioni che sono arrivate ieri da Paolo Gentiloni. MES appunto, appunto la conferma che non ci saranno condizionalità. E se Avvenire apre sulle messe, come prevedibile, ammessa finalmente, perché ieri c'è stato l'accordo tra il governo e la CEI, il Sole 24 Ore ci fa sapere che sui prestiti previsti dal decreto liquidità la scadenza salirà a 10 anni. Tra gli emendamenti liquidità anche, per start-up e terzo settore. E il governo pensa all'autocertificazione per l'accesso ai fondi. Ci fa sapere anche il Sole 24 Ore che non ci sarà moratoria per il pagamento dei tributi locali nella manovra anticrisi che il governo presenterà oggi ai sindaci. E però insomma i comuni potranno intervenire in via autonoma. Ed eccoci qua, queste erano le prime pagine, almeno i titoli di apertura. Veniamo a qualcosa, come sempre, un po' di laterale, ma in questo caso nemmeno troppo, perché parliamo della scuola. Allora, c'è un po' su tutti i giornali, la trovate. Io non so i vostri figli in che scuole vadano, se vanno in scuole dove ci sono, se c'è un gran numero di classi oppure no. Il mio figlio maggiore, per esempio, va in una scuola nella quale ci sono 5 classi, perché è una scuola superiore, e 8 sezioni. Quindi fa un totale di una quarantina di classi. Ebbene, tutti i giornali ci riferiscono che in questo momento il piano di rientro, la bozza di piano di rientro a scuola prevede ingressi contingentati. Una classe ogni 15 minuti. Peschiamo dal Messaggero, siamo a pagina 14 e il pezzo è di Lorena Loiacono. Allora, il personale scolastico dovrà vigilare costantemente sul rispetto delle norme di sicurezza e gli esterni, i genitori compresi, non potranno entrare negli edifici. La mascherina sul volto sarà obbligatoria per gli adulti, spetterà poi al comitato scientifico indicare fino a che anno di età è possibile indossarla. I più piccoli probabilmente ne saranno esonerati. La mattinata inizierà con l'ingresso negli edifici scolastici, che sarà controllato e contingentato. Le classi, infatti, ancora da decidere se complete o metà a casa e metà a distanza, dovranno entrare una per volta con intervalli ogni 15 minuti. Ho fatto un calcolo secco. A scuola di mio figlio l'ultima classe entra alle 18, se iniziano alle 8. Come capite, evidentemente può essere solamente un'ipotesi questa, che la prendiamo per quello che è, però la troviamo un po' su tutti i giornali. In questo modo le procedure di entrata e di uscita saranno più lunghe, ma sarà più semplice garantire il distanziamento, evitando che i ragazzi si accalchino nei corridoi e che all'esterno si vengano a creare assembramenti di ragazzi e di genitori. Questo naturalmente vale per le scuole che hanno un solo ingresso, che sono in realtà molte scuole. E a proposito di scuola, sempre sul Messaggero, vabbè, troviamo ancora la questione della Francia che torna sui banchi da martedì. Gli esperti dicono rischiamo una seconda ondata. E vi segnalo una provocazione niente male del di Vittorio Feltri sul Libero oggi, è un pezzo che inizia in prima pagina, poi prosegue nella sezione Libero Pensiero ed è, vabbè, insomma, Feltri racconta un po' della sua vita scolastica, dei suoi nipoti, dice che la scuola è importante, gliela stiamo negando, eccetera eccetera, e poi chiude con un post-scriptum che in realtà è poi il titolo di prima pagina e, insomma, potrebbe anche aprire una discussione. A proposito di politica, si dibatte sulla necessità di organizzare gli esami di maturità, considerati erroneamente obbligatori quando invece sono superflui, se non per i privatisti. Infatti il corpo docente che ha allevato per 5 anni una scolaresca sa perfettamente chi è maturo e chi no. Tra l'altro, coloro che sono arrivati in fondo al ciclo degli studi evidentemente sono degni del diploma. Che bisogno c'è di sottoporli a un giudizio finale nel momento nel quale sono giunti all'ultima curva? Le prove della maturità sono dunque inutili e dispersive. Quello che uno ha imparato durante il quinquennio è consolidato, non merita un'ulteriore verifica. Così Vittorio Feltri sul Libero, che propone sostanzialmente l'abolizione degli esami di maturità. Un altro paio di storie. Oh, la prima ve l'ho promessa prima, perché ci sono degli aggiornamenti, non perché me l'abbiate chiesto, ma perché ci sono degli aggiornamenti effettivi sulla vicenda delle mascherine della Regione Lazio, ordinate dalla Regione Lazio, lo ricorderete, ad un'azienda che poi non le ha mai consegnate. C'è una fornitura mancata. E la Regione Lazio ha detto fin da subito: non vi preoccupate dal punto di vista economico, e queste mascherine non sono arrivate, e questo è un danno certamente. Dall'altra parte, dal punto di vista economico, siamo tutelati perché c'è un'assicurazione. Ebbene, non è proprio così. Si apprende oggi che la polizza di assicurazione non è valida. Adesso non si sa esattamente che cosa sia successo, però fatto sta che l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, l'IVAS, dopo aver consultato Banca Italia ed effettuato verifiche, aveva comunicato che la società scelta per sottoscrivere la fideiussione, perché l'azienda che ha partecipato alla gara per fornire le mascherine alla Regione Lazio ha dovuto ovviamente avere una fideiussione, non poteva operare né in Italia né all'estero. Le stesse verifiche che alla Regione sostengono di aver svolto con esito positivo. Avete capito? L'IVAS e la Banca d'Italia, che è l'ente preposto a dirti se un'azienda può concedere una fideiussione oppure no, dicono che in realtà questa cosa si basa su una fideiussione di un'azienda che non poteva darla, di una finanziaria che non poteva darla. La Regione Lazio sostiene di sì, e quindi a questo punto la polizza che la Regione Lazio aveva sottoscritto in caso di mancata fornitura di mascherine non è valida. Infine, due storie dalla stampa, e qua siamo, scusate, non vi ho detto su che quotidiano siamo sul Corriere della Sera, pagina 9, e il pezzo lo firma Fiorenza Sarzanini. Due storie, anzi una storia e una vicenda che incrocia la politica italiana e la politica internazionale. La prima è una storia invece che riguarda l'Italia e riguarda le difficoltà di un'azienda sulla quale, tra l'altro, ci fa piacere a questo punto accendere i riflettori, perché si è trovata in una situazione di mezzo molto strana. Non so se sia un caso unico, se ce ne sono altri, e però, insomma, ci sono 134 operai senza cassa integrazione né disoccupazione. È un'azienda che si occupa di rubinetterie, la MZ di Bolzano Novarese, a due passi dal Lago d'Orta, nel polo europeo della rubinetteria, dove tutte le fabbriche hanno riacceso le macchine e sono pronte a tornare a esportare rubinetti in tutto il mondo. Cosa è successo? Che la MNZ è incappata nel fallimento il 7 marzo, occhio alla data, il 7 marzo, è il momento peggiore per cacciarsi in un problema così grosso. La richiesta di cassa integrazione straordinaria è in fila in una coda infinita, preceduta da tutte le richieste di ammortizzatori per il Covid. L'azienda non rientra in nessuna delle categorie per cui è prevista una copertura economica per l'emergenza sanitaria, quindi i lavoratori devono attendere, perché viene prima, subito prima del lockdown sostanzialmente. Non si sa se e quando la cassa potrà essere pagata, ma se gli operai chiedessero di essere licenziati per poter usufruire almeno della NASPI, il sussidio di disoccupazione, la richiesta non potrebbe essere accettata, perché il decreto Cura Italia del 17 marzo ha congelato tutte le procedure di licenziamento. Quindi niente NASPI, niente cassa integrazione. Gli operai della MNZ al momento sono a terra e da due mesi praticamente senza stipendio. Infine, una storia che incrocia, come vi dicevo, la politica, meglio, la politica americana in realtà e la politica italiana, perché ci racconta Paolo Mastroilli, Paolo Mastroilli da New York, ragazzi, stamattina è dura, è venerdì, Paolo Mastroilli, lo pronuncio bene, da New York, sulla stampa, che la Camera dei Deputati americani ha puntato il dito contro l'Italia. Di cosa ci accusa? Ci accusa di non aver fatto o non aver fatto bene i controlli che avevamo promesso sui passeggeri in partenza verso gli Stati Uniti, quando all'inizio di marzo l'epidemia di coronavirus stava esplodendo. E così ci mette in imbarazzo davanti al mondo, ci rimprovera di aver contribuito a diffondere la malattia negli Stati Uniti e rischia di provocare il risentimento del presidente Trump, che si era fidato del nostro governo e in base all'impegno preso non aveva bloccato i voli da Roma e Milano. La storia comincia alla fine di febbraio, quando davanti al drammatico aumento dei contagi Washington considera di estendere all'Europa lo stop del traffico aereo, poi appunto i voli su Roma e su Milano rimangono. Ebbene, ci dice adesso un comitato della Camera dei Deputati americana che insomma si apre un'inchiesta sui controlli dei voli in partenza dall'Italia verso negli Stati Uniti e si nota che appunto che l'Italia non ha sostanzialmente fatto abbastanza. Vedremo come andrà a finire. Intanto una pausa. Mattino. Per cortesia, potete spiegarmi perché nei campi non possono lavorare i disoccupati italiani, devono lavorare gli immigrati? Perché non possono lavorare nei campi quelli che fanno un cavolo a casa con reddito di cittadinanza? Io non sono assolutamente contento di questo governo, assolutamente, però penso che assolutamente stanno facendo quello che fa, che pensa la sua maggioranza, cioè una bella decrescita felice, così ci mandano tutti in rovina. Scusate, ma quale sindrome della capanna? Ma avete visto il video dei Navigli di ieri di Milano? Sindrome della capanna? Ma stiamo scherzando? Ma per favore, ma curatevi tutti nel senso del virus. Buona fortuna, sindrome della capanna. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Te lo dico, l'ascoltatore fa riferimento a quello di cui abbiamo parlato alle 6.45 con il presidente della società di psichiatria, il quale ci diceva c'è anche un rischio di sindrome della capanna. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante sia finito il lockdown te ne resti a casa. E un po' ha ragione nel dire queste foto sui Navigli, no? Colpiscono un po' tutti della gente in giro. Altro che, se ha ragione, anzi mi verrebbe a volte la tentazione di fare questa rassegna stampa con le voci degli ascoltatori più che con la lettura dei giornali, anche se questo ascoltatore è in perfetta sintonia con i giornali, perché oggi tutti sono allarmatissimi da queste foto dei Navigli, folle di ragazzi, alcuni con i piedi nell'acqua, che brindano, fanno aperitivi, veramente folle. E per a futura memoria, sì, ci sono due personaggi che oggi lanciano allarme. Uno è il governatore della Lombardia Fontana, che su un'intervista al Corriere della Sera dice: qua stiamo mettendo troppa enfasi sulla fase 2, ci sono tante persone nei parchi e nelle strade che tengono la mascherina sotto il mento, vedo folle dappertutto, e soprattutto, questo è il Corriere della Sera, soprattutto su Repubblica, pagina 11, il professor Galli, no? Milano è una bomba, troppi infetti sono già in giro, dice il professor Galli. Ormai lo conosciamo, è una persona seria, non ha, lo dice per fare giochetti politici, ed è veramente allarmato, nel senso che tanto siamo stati ordinati nella fase 1, tanto siamo disordinati all'inizio, siamo nella prima settimana della fase 2, e bisogna ricordare, lo dico per inciso, che a Wuhan riaprirne, finire il lockdown, quando i contagi erano a zero. Noi abbiamo ieri i contagiati della Lombardia, di Milano, della Lombardia erano la metà di tutta Italia. Siamo ancora in piena zona epidemica, anche se per fortuna in decrescita, ma allarme. Sì. Guardate, state scherzando col fuoco, lo dico agli ascoltatori milanesi, dobbiamo essere severi con noi stessi, ma dobbiamo essere severi anche con quelli che vediamo andare in giro con troppa disinvoltura. Senza mascherine, senza protezione. Senti Paolo, prima, a proposito di riaperture, te lo devo dire, un ascoltatore ci manda questo messaggio apparentemente criptico, ma insomma, e come disse Mieli, la CEI, perché alla fine ieri l'accordo è arrivato sulle messe, Paolo, come tu profetizzasti, diciamo, Io alla fine dell'anno vorrei fare un consultivo delle mie profezie e vedere, ammettere lealmente quelle in cui ho sbagliato, ma su queste avevo ragione. Alla CEI si sono messi d'accordo e le messe si faranno prima di quanto era stato annunciato, e l'altra profezia che avevo fatto è che fra Di Matteo e Buonafede, fra il magistrato e il ministro di Grazia e Giustizia, sarebbe finita Tarallucci e Vino, è in effetti finito Tarallucci e Vino, nel senso che il magistrato ha smesso di insistere sulle sue tesi, anche se, lo devo dire, quello che lui diceva era impeccabile, cioè non diceva il falso, anzi. Ci sono dei giornali che, per facilitare questa tesi, il primo fra tutti è Il Fatto, continuano da giorni a pubblicare appelli, ma rimettetevi d'accordo, ma su, fate pace, siete due persone per bene. E oggi c'è sul Fatto un articolo di un personaggio, un grande nome, Salvatore Borsellino. Solo che a me sembra che in questi articoli per fare la pace a Di Matteo sia riservata una parte sempre paternalistica, perché forse a Nino si astenga dal guardare programmi trash in TV, anche e soprattutto quando parlano di lui, come se il povero Di Matteo fosse un ingenuo che sta lì appiccicato alla televisione la sera, guarda Giletti, eccetera. Certo. Guarda Giletti e poi si arrabbia quando dicono delle cose di lui che non vanno bene. No, la cosa è molto più seria, tant'è che la faccenda della liberazione dalle carceri continua, non è finita. Assolutamente. Tanto che guarda, Buonafede non ha ottenuto quel decreto per rimetterli dentro, i mafiosi, i boss, in parte boss, in parte piccoli, grandi mafiosi. Senti Paolo, tanto che segnalo questo pezzo di questo retroscena di Francesco Grignetti sulla Stampa a pagina 5, il quale ci racconta non solo che ci sono altri 456 che hanno fatto richiesta, ma che 63 di quelli che sono i domiciliari non avevano nemmeno fatto richiesta, cioè i direttori delle carceri, vista la circolare del DAP, hanno deciso di concedergli gli arresti domiciliari. E poi dicevi c'è la parte politica, giustamente, sulla quale Repubblica apre, no? La sconfitta di Buonafede. Certo. Perché rimetterli dentro era un po' come cercare di mettere dentro il dentifricio quando è uscito, rimetterlo dentro il tubetto, insomma, è pressoché impossibile. Allora si faranno dei provvedimenti un po' vaghi, forse due o tre di questi saranno riacciuffati per far vedere che il governo ha proceduto, ma La prova è stata sicuramente una prova molto infelice. Non ti sto a dire che i giornali di destra, La Verità, vanno a nozze su questo, la Caporetto totale dei manattari, quasi 500 galeotti vogliono uscire, il cortocircuito creato da Buonafede e DAP. A proposito del DAP, tutti i giornali raccontano che Francesco Basentini, cioè l'uomo che era responsabile del DAP, e a cui è riconducibile questo caos, il governo è preoccupato di trovargli un bel posto. In una task force, tra l'altro, è la task force che dovrebbe affrontare l'emergenza Covid nelle carceri. C'è sempre forse un posto nella task force. Francesco Basentini, perché l'ultima comunicazione che ci aveva fatto il Presidente del Consiglio è che adesso avrebbero messo donne, a cominciare da quelle di Colau. Quelle di Colau non si sono viste, ma forse Francesco Basentini viene messo in quota donna. Okay, chissà, in quota. Chissà. Forse. Chissà. Comunque, come capite, il tono che usiamo, sia io che te, è scherzoso, di ciò chiediamo ammenda, almeno io chiedo ammenda. Però la questione politica c'è, no? È collegata, tra l'altro è legata a doppio filo questa vicenda di Bonafede alla questione della sanatoria per i migranti proposta da Italia Viva, insomma, perché Renzi starebbe trattando anche sul ruolo di Bonafede. Renzi, che oggi torna in prima pagina sulla Stampa, che dedica l'apertura a questa intervista, nella quale propone un contratto di governo. Renzi è uscito vincitore, sono tutte partite parziali da questo braccio di ferro. I suoi sono stati accolti da Conte, ieri ascoltati tutti con mascherine a distanza, le foto fanno un po' ridere sui giornali, perché c'è una folta delegazione di Italia Viva con Conte da una parte, non c'è Renzi, mi sembra di aver visto, c'è la Boschi, ma non c'è Renzi, tutti a mascherina, e la ministra Teresa Bellanova ha parzialmente vinto. Braccianti, sto leggendo dal Sole 24 Ore Emilia Patta, sì. Braccianti, trattativa PD, Movimento 5 Stelle su un permesso di 3 mesi, questa è la soluzione, si dà un permesso di 3 mesi. Ovviamente se in questo permesso di 3 mesi rientrano anche degli irregolari, sarà difficile poi ributtarli nella irregolarità, no? Perché una volta che tu li riconosci, è ovvio che siamo alla legalizzazione degli irregolari, che ricordo nei giorni scorsi si disse che erano 600.000. Quindi Bellanova, continuiamo a lavorare per il paese, Conte punta a convincere il Movimento 5 Stelle che è recalcitrante, e Confagricoltura manda un richiamo: rischiamo di lasciare, sempre Emilia Patta che parla, di lasciare nei campi parte rilevanti dei raccordi. Sì. Dei raccolti, scusate, sì. E, c'è ancora una mozione depositata contro Bonafede in Parlamento, sì. E questa mozione è servita solo per mobilitare un po' le attenzioni. Sì. Allora, questo è il quadro politico, adesso ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo e partirei dall'estero, partirei dalla Libia, perché tra l'altro ci sono anche notizie della notte, insomma notizie le troviamo un po' sui giornali di oggi, ma ci sono anche notizie della notte. Brutte notizie, sì, vero? Sì, come tra l'altro gli ascoltatori hanno sentito anche in GR24, a tra un attimo. Mattino. Ed eccoci, la notizia, forse l'avrete sentita in GR24, comunque è quella che un attacco delle forze di Haftar contro civili ha colpito nella tarda serata di ieri l'area intorno alla residenza dell'ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, causando almeno 2 morti. C'è anche una nota del Ministero degli Esteri italiano che dice che parla di attacchi indiscriminati, inaccettabili, che denotano disprezzo per le norme del diritto internazionale per la vita umana. Però tracce di Libia le troviamo un po' sui quotidiani di oggi, Paolo, no? Sì, anche perché ci sono interviste di rappresentanti del governo libico, anche del massimo rappresentante del governo libico, che dice: guardate, state attenti, soprattutto voi italiani, ci avete mollati, vi siete messi dalla parte di Haftar, fingendo, fate fare delle missioni in Libia che obiettivamente fanno il gioco di Haftar, attenti perché qui salta tutto, e non c'è bisogno di ricordarlo perché l'abbiamo ricordato più volte, dalla Libia partono i migranti, quindi fare scoppiare adesso quella polveriera è una cosa assai incauta. Però insomma ci sono anche notizie buone dai giornali sul MES, sì. Perché la Commissione dice che non c'è nessun rischio troica per l'Italia, il MES, cioè questo fondo salva stati a cui chiedere risorse per le questioni sanitarie è senza condizioni per chi lo chieda, sì. Il titolo dell'articolo di Alberto D'Argeno su Repubblica è: Bruxelles spiana strada all'Italia. Nel frattempo la Lagarde rispetta, sì, quella sentenza della Corte Costituzionale tedesca che dice: attenti, non vi muovete su questo terreno, è riferita ai quantitative easing di Draghi, ma insomma dice attenti a muovervi con troppa incautela su questo terreno. C'è la Lagarde, se leggo da Isabella Bufacchi sul Sole 24 Ore, la risposta a Karlsruhe. Karlsruhe è quella cittadina del Baden-Württemberg dove ha sede la Corte Costituzionale tedesca. È una cittadina che chi l'ha conosciuta se la ricorda, perché inventarono lì il tram ai cavalli e per prima fece le isole pedonali. Chiusa la parentesi. Vedi, vedi cosa? No, non lo sapevo. Quindi Karlsruhe. Noi lo diciamo sempre come se fosse la strada, il palazzo, ma sì, in realtà è una ridente cittadina. Insomma, la risposta della Lagarde è: siamo più determinati che mai a impedire la frammentazione finanziaria dell'Eurozona. Sì. Vuole dire, non è che la Corte Costituzionale tedesca ha giurisdizione sulle decisioni che noi prendiamo, sì, su noi ha giurisdizione l'Europa. L'Europa. Notizia sì, che a suo modo può essere confortante, da notare, però che, nasconde, esatto, che nasconde un segreto che riguarda la politica italiana, che tutti stanno dicendo tra le righe: caro Movimento 5 Stelle, accetta il MES perché noi abbiamo creato le condizioni per cui non ci siano ripercussioni, per cui dopo aver ingoiato la storia della regolarizzazione dei migranti, dopo aver ingoiato la storia, la mala figura fatta con Di Matteo e con la liberalizzazione dei mafiosi, la liberazione, scusa, la liberazione, io sono troppo preso dalle liberalizzazioni, della liberazione dei mafiosi, dovrà ingoiare anche il MES con tutte le opportune garanzie, garanzie. Quindi è una settimana nera per la stabilità del governo, questa davvero una settimana nera, però se la caverà. E anche per il Movimento 5 Stelle. Da notare una cosa, che c'è questa intervista alla Stampa, pagina 7, al vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, che allerta, dice: ok, allora il patto di stabilità l'abbiamo sospeso, ma occhio che quando finisce la pandemia lo riattiviamo, quindi insomma andateci piano. Un dettaglio, che non c'è scritto quando finisce del tutto la pandemia, perché non è detto, perché magari per la fine totale della pandemia bisogna aspettare 1-2 anni, non lo so quanto tempo, voglio essere ottimista, diciamo fino a Natale. Ma lui dice una frase ambigua che può voler dire: quando finisce questa fase grave pandemica e si rientra nella normalità, e il modo in cui noi trattiamo le notizie è un po' parzialmente da rientro nella normalità, sì, vedi che ci occupiamo di tutto il resto. Certo. Dice: beh, in quel modo io suonerò il campanello d'allarme e si rientra nel patto di stabilità, che significa che ognuno deve onorare i suoi debiti, non è che possiamo rivolgerci all'Europa dicendo: dacci soldi per solidarietà, fondo perduto, senza debito, quindi senza doveri di restituzione. Attenzione, che noi stiamo vigili, non è che abbiamo creato il regno di Pantalone. Ecco. Sì, ecco. Questo è un po' il concetto. Voglio anche segnalare molto rapidamente agli ascoltatori che sul Sole 24 Ore trovate parecchie informazioni su quello che innanzitutto è in arrivo alle modifiche per il decreto liquidità, gli emendamenti. Si parla appunto di 10 anni per il rientro e quindi viene allungato il tempo. Si parla della moratoria per i tributi locali, non ci sarà, ma i sindaci avranno possibilità di scegliere. Infine questo maledetto decreto ex aprile, che adesso è diventato decreto maggio col super bonus al 110%, però non si sa se si riesce ad approvare entro il fine settimana. A questo punto speriamo di sì. Però prima di chiudere, abbiamo parlato molto d'Europa, parliamo di un ex presidente della Commissione Europea, caro Paolo, che apre l'edizione di oggi del Foglio. Non lo sapevo che andavi a parlare lì, però sei legittimato, perché il Foglio addirittura dedica un titolo di apertura a questa questione con un articolo di Adriano Sofri. Che è successo? Che Anne Catherine Strack, che è una giornalista televisiva, ha denunciato Valéry Giscard d'Estaing per molestie sessuali. La particolarità e, che età, ha colpito Sofri. Età del molestatore all'epoca? 92 anni. E lei 35. Tra l'altro, nelle foto si vede lui è leggermente più anziano da quello che si vede dei suoi 92 anni. Le foto sono di adesso, che ne ha 94. E lei appare molto più giovane dei suoi 35 anni all'epoca dei fatti. Che è successo? Che lei è andata a intervistare Valérie Giscard d'Estaing e alla fine lei gli ha chiesto di fare una foto opportunity. Sì. E secondo la sua testimonianza lui avrebbe stretto un po' troppo facendo questa foto, cioè l'avrebbe stretta per le spalle, forse addirittura palpeggiata. Ma la poveretta non voleva, la poveretta lo dico con simpatia, cioè sì, la gloriosa professionista non voleva denunciarlo, se non che il movimento MeToo l'ha spinta, l'hanno esortata, no, tu lo devi fare, devi assolutamente denunciarlo, e si è trovata un po' stritolata, quasi costretta a fare questa denuncia, per cui oggi tutti i giornali, non ti dico i giornali francesi, vanno a nozze, perché lì in Francia l'Eliseo è considerato una specie di paradiso in terra, nel senso che tutti, dicono sì, tutti i presidenti, Mitterrand ebbe una figlia segreta, di Chirac si farò sì, di un'amicizia con Claudia Cardinale, Sarkozy ebbe Carla Bruni, Hollande si fece riprendere col casco mentre andava sì, a trovare Julie Gayet, insomma l'Eliseo è un paradiso in terra per uomini che vogliono fare avance sentimentali alle donne, e adesso scoppia anche su Valérie sì, Giscard d'Estaing, la cui fama devo dire non era immacolata, perché a suo tempo anche lui sì, fu coinvolto in una storia che sembra abbia avuto una piccola avventura con Diana d'Inghilterra sì, all'epoca in cui lei era scontenta di Carlo. Però questo caso tiene banco sui giornali per chi si vuole un po' distrarre sì, dalle vicende del Covid, da... La trovate sul Foglio, ne scrive oggi Adriano Sofri. Allora chiudiamo qua, grazie Paolo Mieli, ci risentiamo lunedì mattina, buona giornata, buon fine settimana. Grazie a te. GR24 a tra poco con Maria Latella, i nostri ospiti, avremo Brunello Cucinelli, poi ci sarà il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, a tra poco.